Di Matilde Serao, Il romanzo della fanciulla, edizione Liber Liber, gratuitamente scaricabile da internet. Prefazione. La prima parola a me, di grazia, per non essere fraintesa o malintesa. I critici poi si scervellino pure liberamente e si battano contro il mio libro, o tra loro, o contro la comune matrigna, la critica. La prima parola a me, per alcune semplici e umili spiegazioni, agli uomini, cui presento una materia ad essi sconosciuta, alle donne, cui raccomando una materia ad esse ben cara. Voi avrete letto Cherie di Goncourt, romanzo e prefazione. La prefazione è ambiziosa, il romanzo è povero. La prefazione promette assai, il romanzo mantiene poco o nulla. Come va questo? Io me lo sono domandata più volte. Come il potente analizzatore di Germinie Lacerteaux, di Manette Salomon, de La Faustaine, ha potuto così miseramente fallire nell'anatomia spirituale e fisiologica di Cherie? L'ambiziosa prefazione spiega il mistero. Goncourt non ha potuto studiare la fanciulla nel vivo, come ha potuto fare della serva nevrotica, della modella, dell'attrice. Ha dovuto ricorrere alle confessioni delle fanciulle, come se la fanciulla si confessasse mai a nessuno, madre o amica, fidanzato o romanziere sperimentale. Chiusa come un baco da seta in un bozzolo filato dal rispetto umano, dall'educazione strana e variabile, dalla modestia obbligatoria, dall'ignoranza imposta, dalla inconsapevolezza a ogni costo. È trascinata poi da una forza contraria, di impulsione a gravitare intorno al sole del matrimonio, la fanciulla si sviluppa in condizioni morali difficilissime. Ella deve vivere a contatto con gli uomini senza che tra essi e lei s'apra una corrente di comunione, deve indovinare tutto dopo aver tutto sospettato e sembrare ignorante, deve avere un'ambizione cocente e consumatrice, un desiderio gigantesco, una volontà infrenabile di aggrapparsi a un uomo e deve essere fredda e deve essere indifferente. Il romanzo della rosa si trasforma nel dramma della rosa, poiché il dolce fiore nascosto dietro le trincee e le fortezze della virtù invoca con ardente desiderio un conquistatore. In questo dramma interiore imposto alla fanciulla dalla necessità della nostra vita, ella diventa profonda, pensosa, malinconica spesso, scettica sempre. Nessuno più dalla fanciulla apprende quotidianamente i dolori e le disfatte della lotta per l'esistenza. Ella vive guardinga, muove i passi con precauzione e la sua anima non si dà facilmente. I misteri del suo spirito restano impenetrabili. Niuno più della fanciulla sente acutamente la vita. In un contrasto talvolta comico, talvolta doloroso, quegli occhi abbassati o distratti hanno sagacità di osservazione insuperabile. Quelle testine bionde che a nulla dovrebbero pensare hanno un'intuizione potente, una favolosa tenacità di memoria. Quelle belle angelette sognanti debbono, per necessità di difesa, essere implacabili raccoglitrici di documenti umani. Aspra è la battaglia nella vita femminile, ma il motto sconfortato di Giobbe è fatto per la fanciulla. Ora, anch'io ho attraversato questo drammatico tratto della vita, anzi, la varia fortuna mi ha fatto passare per più anni di seguito attraverso un meraviglioso poliorama di fanciulle di ogni classe, di ogni indole e di ogni razza. Quello stupendo erbario umano, ove le sottili gramigne aristocratiche si intrecciano coi grassi garofani borghesi, ove l'erbuccia malaticcia è sopraffatta dalla pianta florida. Io l'ho visto vivere, crescere, ramificarsi, insinuandosi e penetrando dappertutto. Tutte quelle fanciulle mi sono passate accanto, sono passate, si sono allontanate, sono scomparse, sono entrate nella felicità o nella morte, alcune nella felicità per la morte. Ma l'immagine loro è rimasta in me, vivente. E se io potessi realmente evocare tutti, tutti i fantasmi che nella mia mente si incalzano e si affollano, quale sfilata di fanciulle! Accade ciò perché i ricordi si fanno tanto più vivi quanto più si allontana l'oggetto? O perché la memoria fanciullesca è più sveglia, più alacre, più fresca? o per quella potente virtù osservativa che le fanciulle hanno. I filosofi positivisti risolvono il problema quanto a me in questo libro. La mia psicologia è fatta di memoria e in me, nell'anima, tutte avete lasciato un solco, un'impronta, un fantasma, o voi, creature femminili che viveste meco un'ora, un giorno, un anno. Voi vivete in me, come eravate un tempo nei corridoi e nelle aule della scuola normale, negli uffici del telegrafo, ai balconi provinciali di Santa Maria ove fioriscono le gaggie e gli amori, sulle terrazze napoletane ove giunge la malinconia del mare lontano e delle chitarre preganti. Ogni volta che io tento di costruire lo schema ideale e generale della fanciulla per farne l'eroina di un romanzo, tutte quante le vostre voci, o amiche, felici o infelici, lontane, lontane tutte, mi risuonano nella testa, in coro, e un chiasso confuso come una volta, rammentate? Io rammento, con tanta vivezza, con tanta intensità, che tutti i miei nervi tremano, che una commozione di tenerezza e di pianto mi scuote l'anima. Tutte queste voci che vengono dal passato, tutte queste braccia che si stendono verso me dal tempo lontano, questa apparvenza così viva di cose che più non sono o che non sono più tali, mi trascinano, mi turbano, mi tolgono la serenità necessaria a comporre un romanzo conforme alle regole stabilite. Perciò io non voglio fare un romanzo. Non voglio creare un tipo, non voglio risolvere un problema di psicologia sperimentale. Io scavo nella mia memoria, dove i ricordi sono disposti a strati successivi, come le tracce della vita geologica nella crosta terrestre. E vi do le note così come le trovo, senza ricostruire degli animali fantastici. Vi do delle novelle senza protagonisti, o meglio, dove tutti sono protagonisti. Se ciò sia conforme alle leggi dell'arte, non so. Dal primo giorno che ho scritto, io non ho mai voluto o saputo essere altro che un fedele, umile cronista della mia memoria. Mi sono affidata all'istinto e non credo che mi abbia ingannata. Mi pare infatti di aver sentito dire che nelle tragedie antiche il protagonista vero era il coro. E di aver letto che nelle commedie di Aristofane il protagonista è il popolo. L'istinto dunque mi ha guidata e consigliata bene. Ripensandovi su ora e correggendo le stampe del mio libro, io sento di amare queste novelle e di prediligerle soprattutto ciò che ho scritto. Ho fatto delle novelle corali, ove il movimento viene tutto dalla massa, ove l'anima è nella moltitudine e non me ne pento. Invece di fabbricare una fanciulla, ho rievocato tutte le compagne della mia fanciullezza. Invece di costruire un'eroina, ho rivissuto con le mie amiche del tempo lontano. È un sogno amaro e pietoso, fissato sulla carta. Così pochi libri sono stati scritti con più amore, con più tenerezza, con più passione di questo. Mentre queste pagine passavano sotto la corsa nervosa della mia penna, voi passavate nell'anima mia con la faccia di un tempo, con la voce di un tempo, bellezze. Avevo anch'io un'altra faccia, un'altra voce, quella d'allora. Scrivendo, le cose mutate erano di nuovo come furono, le cose finite ricominciavano, il dolore rideva, la morte parlava, poiché voi, che la vita ha dolorosamente colpite, avevate l'allegrezza antica e voi, che siete morte, mi sembravate vive. Insieme vivemmo la vita di questo libro. Io l'ho scritto e ve lo dono. Beata chi di voi può leggerlo senza lacrime. Ottobre 1885, Matilde Serao. Telegrafi dello Stato, sezione femminile. Come Maria Vitale schiuse il portoncino di casa, fu colpita dalla gelida brezza mattutina. Le rosee guance pienotte impallidirono per il freddo, il corpo giovenilmente grassotto rabbrividì nell'abituccio gramo di lanetta nera, e là si ammucchiò al collo e sul petto lo sciallino di lana azzurra che fingeva di essere un paltoncino. Nella piazzetta dei Bianchi non passava un'anima. La bottega del fabbro era ancora chiusa, la tipografia del pungolo era sbarrata. Per i vicoli di Montesanto, di Latilla, dei Pellegrini, dello Spirito Santo che sbucavano nella piazzetta non compariva nessuno. Una nitida luce bigia si diffondeva sulle vecchie case, sui vetri bagnati di brina, sui chiassuoli sudici, e il cielo aveva la chiarezza fredda, la tinta metallica e finissima delle albe invernali. Allora Maria Vitale, mentre si avviava, sorpresa dal silenzio e dalla solitudine, fu colta da una vaga inquietudine. «Sono forse uscita troppo presto», pensò. Batté il piede in terra per il dispetto. Non avevano orologio in casa e alle 7:05 ella si doveva trovare in ufficio. Così alla mattina cominciava il fastidio. La madre si destava prestissimo e dall'altra stanza la chiamava. «Marie? Mamma? Alzati che ora?» Ella si riaddormentava col buon sonno delle fanciulle sane e tranquille. Dopo 5 minuti la madre la chiamava di nuovo a voce più alta. «Ho inteso, mamma, ho inteso, mi sto alzando!» Ma poiché il sonno riabbatteva sul lettuccio quella fanciullona robusta, la madre taceva, vinta, e qui interveniva il padre, l'ebanista, con la sua grossa voce. «Mariettella, alzati, se no paghi la multa!» Ella allora si decideva. Si buttava giù di un colpo, sbadigliando, non osando voltarsi al letto per timore di ricadervi, accanto alla sorella Serafina. Camminava piano, in camicia e gonnella, per non svegliare i due fratellini Carluccio e Gennarino che dormivano nella stessa stanza, dietro una tenda. Andava a lavarsi la faccia in cucina. Invece del caffè, che non si usava in casa, mangiava un frutto avanzato alla cena della sera prima e un pezzo di pane stantio. Si vestiva presto presto. Malgrado questa sua premura, 4-5 volte raggiunta in ufficio dopo le 7 perché non aveva l'orologio. La direttrice aveva segnato questo ritardo sul registro e Maria Vitale aveva pagato 1 lira di multa. Accadeva che dalle 90 lire di mesata, tra le 6 che se ne prendeva il governo per la ricchezza mobile e altre 2 o 3 che se ne pagavano per le multe, si scendesse a 80 come niente. Così ogni mattina ella era presa da una gran tremarella e talvolta usciva troppo presto. «Che ora sarà?» pensava Maria Vitale, contristata dall'idea che fosse prestissimo. Nel vicolo dei Bianchi, per dove si va a Toledo, incontrò il caffettiere ambulante che portava in giro il suo fornelletto con le cogome sepolte nella cenere calda e 3 o 4 tazzine infilate alle dita. «Galantò, che ora sarà?» domandò ella. «Sono le 5:30, signorina mia, l'ho pigliato un tocchetto?» «No, grazie, non ne prendo.» «1 ora. Ci voleva 1 ora. Ah, era uscita 1 ora prima. Se ne andava con le lacrime agli occhi per il dispiacere, pensando a quel buon tempo di sonno che aveva perso. Un dolore ingenuo, puerile, le saliva dal cuore alle labbra, come se le avessero fatto una grande ingiustizia, come quando piccoletta la battevano per una colpa non sua. Che avrebbe fatto in quell'ora? Oh, come sarebbe volentieri tornata a casa a ricacciarsi nel suo lettuccio caldo, con la guancia affondata nel cuscino e le braccia piegate alla cintura. Era inutile oramai, era uscita troppo presto, non avrebbe mai ritrovato quella bella ora di sonno perduta. Dove andare? Il venticello gelido la infastidiva, mandandole in faccia la polvere di via Toledo, non ancora spazzata. Non poteva passeggiare a quell'ora, sola come una pazza, fra i venditori di frutta che scendevano dai giardini alle vie centrali di Napoli e fra i carri dello spazzamento che trabalzavano cupamente sul selciato. Andare a prendere Assunta Caparelli, che abitava ai Ventaglieri? Assunta era di servizio nel pomeriggio quel giorno, non aveva obbligo di levarsi presto. Certo, felice lei, dormiva profondamente. Andare a prendere Caterina Borrelli, che abitava alla Pignasecca? Che Caterina Borrelli era una dormigliona impenitente che si alzava alle 7:15, si vestiva in 6 minuti e arrivava all'ufficio correndo, ridendo, sbadigliando, col cappello di traverso, la treccia che si disfaceva, la cravatta a rovescio, e rispondeva vivamente all'appello: «Presente!» Tutte dormivano ancora, le fortunate. Un'amarezza si diffondeva nella buona anima di Maria Vitale. Le pareva di essere sola nel vasto mondo, condannata a dormire scarsamente, condannata ad avere sempre freddo e sonno, mentre tutte le altre dormivano al caldo, nella felicità intensa e profonda del riposo. E l'amarezza era anche senso di abbandono, disgusto della miseria, dolore infantile. Chinando il capo come rassegnazione, entrò nella chiesa dello Spirito Santo macchinalmente per rifugio, per conforto. Subito quella penombra sacra, quell'aria molle e umida, non fredda, la calmarono. Sedette in uno dei banchi di legno dipinto, quello dei poveri che non hanno il soldo per la sedia di paglia, e appoggiò il capo alla spalliera del banco che aveva innanzi. Ora pregava quietamente, dicendo un gloria, tre pater, tre ave, tre requiem, come è prescritto quando si entra a caso in chiesa e non vi sono funzioni sacre. Poi raccomandò a Dio l'anima della nonna che era morta l'anno prima, la salute di mamma, di papà, nominava i fratelli, le sorelle, il compare, i superiori, i viaggiatori sul mare in tempesta, le anime abbandonate. Per sé non chiedeva nulla. In quel torpore fisico non provava nessun desiderio spirituale e personale, nulla le si precisava come bisogno nell'anima, solo confusamente avrebbe voluto pregare la Madonna che la lasciasse dormire al mattino sino alle 9. Bella felicità che non aveva mai goduta. Sentiva solo un sonno tenace scenderle sul capo e dalla nuca diffondersi lentamente per il corpo. Dormiva con la faccia tra le mani, il cappello venuto giù sulla fronte, con le gambe immobili e il busto penosamente inchinato. Dormendo, udiva lo scaccino andare e venire, scostare le sedie, spazzare il pavimento marmoreo. A un tratto una voce le mormorò nell'orecchio: «Vitale, dormi o piangi?» «Ecco, mamma!» borbottò Maria svegliandosi. Giulietta Scarano, una fanciulla dai bei capelli castani, dalla testina piccola sopra un corpo grasso, dagli occhi chiari e sempre statici, sorrideva mitemente accanto a lei, guardando l'altare maggiore dove lo Spirito Santo risplendeva in una raggiera d'oro. «Oh, mi sono addormentata. Hai anche sbagliato l'ora tu?» «No, esco presto perché devo venire a piedi da Capodimonte. Entro sempre in chiesa passando.» «Andiamo?» «Sì, e ora?» Si avviarono. Maria Vitale, tutta indolenzita, con un gran freddo addosso e un formicolio nelle gambe, Giulia Scarano camminando come una sonnambula, senza parlare. «Che hai?» chiese Maria. «Niente», disse l'altra, con la malinconia di una voce giovanile che i singhiozzi hanno velato. «Sempre Mimì, eh?» insistette Maria con la sua aria saggia e compassionevole da donnina invulnerabile. «Sempre. Ci perderai la salute, Scarano.» «Oh, così fosse. Non dire queste brutte parole. Oh, che cattiva cosa è l'amore. Io non ho mai voluto fare all'amore per questo.» «Già, si dice sempre così quando non si vuole bene a nessuno. È che Mimì è ammalato, io non posso vederlo e mi sento morire.» scoppiò a dire l'altra, non potendone più. «Oh, poverello, poverello, speriamo che non sia niente», mormorò Maria, che si contristava subito. Scendendo per la via di Monte Oliveto, erano giunte presso la fontana. Giulietta Scarano, assorbita nella desolazione della sua idea amorosa, Maria Vitale crollando il capo sulle miserie umane. «Ecco. Ella non era una testa forte come Caterina Borrelli, che scriveva continuamente un romanzo in un suo quaderno grosso grosso. Ella non sapeva fare i versi come Pasqualina Morra, ma capiva che l'amore è un grande tormento.» «Non posso vederlo», ripeteva ancora Giulia Scarano. «Scrivigli una letterina.» «E ne ho scritte tre, di 4 foglietti l'una, da ieri, ma non so come mandargliele. Mamma ha cacciato Carolina, la serva che mi voleva bene e mi aiutava.» «Impostale.» «Non ho soldi per i francobolli, mi vergogno di mandarle senza. Chissà, Galante, la nostra inserviente, potrebbe aiutarmi.» Erano innanzi al Palazzo Gravina, severo palazzo bigio, di vecchio travertino, di architettura molto semplice. Pareva, ed era, molto antico. Certo, aveva visto succedersi dietro le sue muraglie profonde casi lieti, casi truci, feste di amore e congiure di ambizione, dolci affetti umani e feroci passioni. Ora le sue stanze terrene, sbarrate ermeticamente sulla via, si aprivano al pubblico sotto il portico, nell'interno del cortile, e servivano da uffici postali. Intorno ai suoi finestroni larghi e alti, sugli spigoli dei suoi muri oscuri, era una fioritura verticale di funghi bianchi. gli isolatori telegrafici di porcellana da cui partivano tutti quei fili sottilissimi, 10, 12 da una parte, 3 da un'altra, 4, 5 da una terza, trama leggera che si stende sul mondo. Sul balcone di mezzo, dietro il largo scudo di metallo dove si legge «Telegrafi dello Stato», un uomo fumava, appoggiato all'inferriata, guardando il cielo mattinale. «Chi è quello?» chiese Maria Vitale. «È Ignazio Montanaro, sarà stato di servizio questa notte». Per il largo scalone, Cristina Iuliano le raggiunse, le salutò, senza fermarsi. Sembrava un brutto uomo vestito da donna, col suo grande corpo sconquassato, troppo largo di spalle, troppo lungo di busto, senza fianchi, con le mani grandi, i polsi nodosi, i piedi enormi. Portava ancora il cappello di paglia bianca dell'estate, abbassato sulla fronte, per mitigare lo spavento che produceva il suo occhio guercio, bianco, pauroso, e per scoprire la dovizia meravigliosa di due treccioni neri, una ricchezza strabocchevole di capelli che le tiravano la testa indietro per il peso. «È inutile, questa Iuliano mi è antipatica», disse la Vitale. «Non è cattiva, però», rispose la Scarano con la mitezza delle anime innamorate. Sul pianerottolo le raggiunse Adelina Marcò e si unì a loro. «Che freddo!» disse ella con voce molle e seducente. Si lisciava con la punta delle dita i capelli biondissimi, ondulati, che il vento aveva scomposti, ma il vento aveva reso più vivida la bella bocca dalle labbra delicatamente rialzate agli angoli, aveva colorito piacevolmente quella fine carnagione dorata di bionda. La leggiadra e flessuosa persona diciottenne era ben riparata in un vestito caldo ed elegante di panno verde cupo. Una piuma bianca, volitante sul cappello di feltro verde, le dava un aspetto di amazzone giovanile, una figura di fanciulla inglese aristocratica, pronta per montare a cavallo. Non era povera né popolana, Adelina Marcò, era una delle due o tre felici signorine che lavoravano solo per farsi vestiti, per comperare la biancheria del corredo. Quando entrava in ufficio Adelina Marcò, col suo sorriso benevolo, col suo passo ritmico, portando i suoi vestiti fini e ricchi, i suoi cappelli bizzarri, i suoi profumi squisiti, pareva una giovane duchessa che si degnasse visitare quella casa del lavoro, una infante reale e benigna e umana che si compiacesse passare una giornata fra le umili operaie del telegrafo. Parlavano ancora del freddo, innanzi alla porta bianca su cui era scritto «Sezione femminile». Venne ad aprire Gaetanina Galante, l'inserviente, mostrando il suo viso appuntito e olivastro di volpe maligna. «È venuta la direttrice?» chiesero quasi in coro le tre ausiliarie entrando. «Ma che? È ancora messa?» rispose quella sogghignando nella sua sfacciataggine di servetta viziata. Respirarono. Era sempre meglio giungere prima della direttrice per dimostrare zelo e amore all'ufficio. Come entravano in quell'anticamera tetra, la burocrazia avvinghiava l'anima di tutte quelle ragazze. Il frasario di ufficio, sgrammaticato e convenzionale, fioriva sulle loro labbra. Quelle già arrivate, chi seduta, chi presso la finestra per avere un po' di luce, parlavano già di linee, di guasti, di ingombri sui circuiti diretti. Lo stanzone era cupo. Ed esse sbassavano la voce per istinto. L'unica finestra dava sullo stretto vicolo dei carrozzieri. L'oscurità dell'anticamera era aumentata dal grande armadione diviso in tanti armadietti dove le ausiliarie riponevano i cappellini, gli ombrelli, i mantelli. Quelle più poverine, la colazione portata da casa, quelle meno povere, il ricamo o l'uncinetto, le più studiose o le più romantiche, i quaderni. In mezzo allo stanzone un grande tavolo di mogano, a una parete un divano di tela rossa, nessun altro mobile. Negli spazi liberi delle pareti, chiusi in sottili cornici di legno nero senza cristallo, pendevano l'indice alfabetico delle ausiliarie e delle giornaliere, il regolamento interno, l'ultimo editto direttoriale, una carta geografica e telegrafica dell'Italia. Nessuna li leggeva più, questi stampati polverosi, insudiciati dalle mosche. L'interesse di tutte era quel foglio di carta che circolava di mano in mano e che le destinava per quel giorno a una linea speciale. La direttrice, con la sua scrittura rotonda e tutta svolazzi, scriveva da una parte in colonna il numero d'ordine che porta la linea, di rimpetto il nome dell'ausiliaria che doveva lavorarvi in quel giorno per 7 ore. Appena entrate, tutte cercavano questo foglio avidamente, mentre ancora si cavavano il cappello e si sbottonavano il paltoncino. E come c'erano linee buone e linee cattive, linee senza lavoro e linee con molto lavoro, linee dove ci vuole una pazienza infinita e linee dove è richiesta una sveltezza singolare, così le esclamazioni piovevano. «È vero che sono una scema e che non so ricevere ancora bene», mormorava Maria Vitale, «ma mettermi ogni 2 giorni a Castellammare è insopportabile. Se faccio 50 telegrammi in 7 ore è un granché, imparerò presto a questo modo». «E non ringrazi Dio?» le diceva Emma Torelli, una biondona alta e bianca, dalla forte pronuncia piemontese. «Io vorrei non saper ricevere come te. Oggi mi hanno dato Salerno, quella linea indiavolata. E sabato ci saranno i biglietti del lotto che i salernitani giocano a Napoli. 180 dispacci, come niente. Ho l'emicrania io, vedrai che lite oggi fra me e il corrispondente se non arra dritto». «Come le viene in mente alla direttrice di consegnarmi Avellino?» esclamava Ida Torelli, la seconda sorella. «Io con quel vecchione del corrispondente non posso lavorare. Figurati, cara Marcò, una mummia di 70 anni che non può soffrire la sezione femminile. Lo chiamate e non risponde. Dopo un'ora vi chiama precipitosamente e vi fa una sfuriata. A ogni parola trasmessa interrompe. A ogni dispaccio chiede spiegazioni. È irascibile, cocciuto, insolente. Una linea da crepare». «Io sto con Genova», rispondeva la Marcò con una voce che pareva un canto. «Il che non è divertente. La linea è così lunga che la pila non basta mai. La corrente è variabilissima, ora forte forte che unisce e confonde tutti i segni, ora tanto debole che i segni non arrivano». «Chiami il corrispondente, non ti sente, ti chiama lui, non lo senti, corrispondi per 10 minuti bene e respiri che all'undicesimo minuto la linea si guasta, i dispacci crescono, il ritardo è sempre di 3 ore». Le più scontente erano le ughiste, le migliori ausiliarie che avevano imparato a lavorare sulla macchina stampante Hug. Ci si lavora in due a questa macchina complicata che pare un cembalo, e vi è bisogno di forza e di attenzione in ambedue le impiegate. Ora, in queste coppie, la direttrice non univa mai due che fossero amiche, per impedire il soverchio chiacchiericcio. Univa sempre una brava a una più debolina. Così queste coppie mancavano di simpatia fra loro. L'una disprezzava l'altra e l'altra sentiva il disprezzo. Queste galeotte del lavoro non si lagnavano ad alta voce per superbia, ma se ne stavano ognuna in un cantuccio, imbronciate, senza parlarsi e senza guardarsi. Maria Morra si ripassava la parte di Paolina nei Nostri buoni villici, che doveva recitare da filodrammatica al Teatro di San Ferdinando, la sua compagnia. La sua compagna, Sofia Magliano, una brunetta dal lungo viso caprino, covava il dispetto, lavorando a una sua stella all'uncinetto. Serafina Casale, piccola, fredda, orgogliosa, pallida e taciturna, prendeva del citrato di ferro in un'ostia bagnata per guarire dall'anemia che la minava. E Annina Pescara aveva la bella faccia rotonda tutta conturbata dall'idea di dover lavorare con quella noiosa di Serafina Casale. In un angolo scuro Giulietta Scarano pregava e supplicava l'inserviente Gaetanina Galante che le facesse questo favore per amore della Madonna, che mandasse per qualcuno la lettera a Mimì. La Galante diceva di no, protestando che di codesti affari non si voleva più mischiare, che aveva avuti troppi dispiaceri, che le ausiliarie erano tante sconoscenti, che lei, l'inserviente, valeva molto meglio di tante che portavano superbia, perché erano impiegate alle macchine, e poi dovevano umiliarsi a lei per ogni genere di favori. Giulietta Scarano impallidiva, le tremava la voce innanzi a quella serva che la torturava con un rifiuto villano, affogato in un profluvio di trivialità, giunse sino a prenderle la mano, raccomandandosi. A un tratto, sulle voci rose, lamentose, strascicate nella noia, sugli sfoghi dei rancori amorosi e di invidie di ufficio, un zittio passò. Entrava la direttrice. Subito in coro a voci digradanti, più basse, più alte, acute, lente, frettolose o in ritardo, queste parole si udirono. «Buongiorno, direttrice!» Ella salutava col capo, con un sorriso amabile sulle labbra di rosa morta. I fini capelli di un biondo cinereo erano tirati indietro, precisamente non uno fuori di posto. Tutto il volto aveva la grassezza molle, il pallore di avorio delle zitelle trentenni, vissute in monastero o in educandato, in una castità naturale di temperamento e di fantasia. In verità, ella aveva qualcosa di claustrale in tutto, nel vestito di Casimiro nero, nel goletto bianco, nella cautela del passo, nella bassezza della voce, nella morbidezza delle mani che pareva si dovessero congiungere solo per la preghiera, nella limpidezza inespressiva degli occhi bigi, in certi reclinamenti del capo per pensare. Ella toglieva i guanti e il mantello chetamente e guardava le ragazze, osservando che Ida Torelli non aveva il busto al solito, che Peppina De Notaris portava un anello d'uomo al dito mignolo, che Olimpia Faraone portava troppa velutin sul viso. Le ausiliarie si davano un contegno disinvolto, ma si sentivano sotto quello sguardo freddo e l'imbarazzo le vinceva. Ella, la prima, entrò nel salone delle macchine e si sedette al suo posto. Dietro la scrivania, scrivendo in certi suoi registri, pian piano con la testa inclinata come si farebbe il compito di scuola. Burrasca in direzione, disse Caterina Borrelli, che era la miope più insolente, rialzandosi le lenti sul naso rincagnato. Le ausiliarie si trattenevano ancora in anticamera, visto che mancavano 5 minuti alle 7. Ogni minuto squillava il campanello elettrico, qualcuno sopraggiungeva. Era Peppina Sanna, una magrolina e snella tutta inglese, col vestito a quadrettini bianchi e neri, con gli stivaletti a punta quadrata e senza tacco, col grande velo azzurro che le avvolgeva il cappello e la testa, con un ombrello da pioggia, un sacchetto di pelle nera e un volume dell'edizione Tauchnitz sempre sotto il braccio. Era Maria Immacolata Concetta Sant'Agnello, una fanciullona bianca, grassa e grossa, che ondeggiava, camminando come un'oca, di cui tutti si burlavano, che era piena di scrupoli religiosi, che prima di trasmettere un telegramma invocava il nome di Gesù e Maria. Era Annina Caracciolo, brunissima, coi capelli neri e ricciuti, la bocca rossa e schiusa come un garofano, gli occhioni languidi, l'andatura indolente di una creola. Impiegata svogliata che nessun rimprovero e nessuna emulazione poteva risvegliare. Si parlottava in un gruppo di 2 o 3, sogguardando verso la direttrice che scriveva sempre, con la sua posa composta di alunna calligrafa, appena ella udiva una voce troppo forte o una risata troppo alta, levava il capo e faceva «Shh!». Poi uno squillo del timbro e la voce liquida della direttrice «Signorine in ufficio!». In silenzio, esse sfilarono davanti alla sua scrivania e si diressero alle macchine. Nella piena luce del salone, rischiarato da 3 finestre, si vedevano le facce assonnate di quelle che avevano troppo poco dormito, le facce smorte di quelle colpite dal freddo, le facce scialbe di quelle malaticce, e da tutte si diffondeva un senso di pacata rassegnazione, di noia indifferente, di apatia quasi serena. Cominciavano la loro giornata di lavoro senza ridere, tutte occupate meccanicamente in quei primi apparecchi, curve sulle macchine. Chi svitava il coltellino d'acciaio che imprimeva i segni, chi metteva un rotolo nuovo di carta, chi bagnava d'inchiostro con un pennello il cuscinettino girante, chi provava l'elasticità del tasto. Poi, nella quiete mattinale, principiò il ticchettio dei tasti sulle incudinette e ogni tanto queste frasi suonavano monotamente. «Direttrice, Caserta non risponde. Direttrice, si va bene con Aquila. Direttrice, al solito Genova chiede un rinforzo di pila. Direttrice, Benevento vuol sapere l'ora precisa. Direttrice, Otranto ha un dispaccio di 400 parole in inglese. Direttrice, Salerno dice che vi è guasto sulla linea di potenza». Il sole d'inverno ora entrava in ufficio. Nessuna levava la testa a guardarne sui vetri la striscia sottile.